Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola Sono cose da grandi, l'ha scritto Simona Sparaco, pubblicato per Einaudi. Simona Sparaco è un nome già noto, insomma, ai lettori e alle lettrici italiane. Vi cito qualche titolo, forse il più famoso, Nessuno sa di noi, poi Se chiudo gli occhi, Equazione di un amore. Tra l'altro trovate anche alcune di queste interviste su alcuni di questi libri su radio24.it nella sezione del cacciatore di libri. Questo è un libro diverso dagli altri perché è un piccolo libro, sono un centinaio di pagine ed è sostanzialmente una lunga lettera che Simona Sparaco scrive a suo figlio, parlando di tutte quelle che possono essere le preoccupazioni, le ansie di una madre nei confronti di un figlio. Diego, il figlio, diciamo, che è rappresentato in questo libro, ha 4 anni e Simona inizia a scrivere questo Sono cose da grandi partendo da un evento preciso, cioè dall'attentato a Nizza, quando appunto il TIR aveva investito una serie di persone uccidendole. Il bambino guarda queste immagini televisive, come purtroppo capita oggi, spesso i genitori si trovano a dover spiegare che cosa è accaduto. Qual è stata, Simona, la reazione di tuo figlio a quelle immagini e che cosa poi ha provocato in te la sua reazione? Mio figlio si è trovato in quei giorni estivi accidentalmente davanti al telegiornale, era l'ora di pranzo e aveva 4 anni e ha guardato quelle immagini senza avere consapevolezza di che cosa stava guardando. Sa di avere la passione per i camion, come quasi tutti i bambini di quell'età, e quindi ha ascoltato un po' troppo. Io non mi ero accorta, eravamo tutti troppo attoniti da quel racconto per renderci conto che Diego in realtà era lì vicino a noi. Io dico sempre a Diego sono cose da grandi per cercare di distogliere la sua attenzione quando lui si incuriosisce verso qualche immagine violenta, qualche cosa che in qualche modo non è adatta alla sua età. Quel momento è stato sconvolgente per me perché è stato Diego a dirmi: mamma, è da grandi. Si è reso conto, insomma, che non era una cosa adatta alla sua età, insomma, che era qualcosa di grave. Tu come hai provato poi, lo fai anche in parte in questo libro, a spiegare a un bambino di 4 anni cos'è il terrorismo? Ho cercato di usare delle metafore, di dargli degli strumenti. Ho inventato per lui la scatola magica dei desideri, dei progetti, perché credo che in ogni famiglia, in ogni luogo dove c'è un legame, esiste anche una scatola. E in questa scatola mettiamo dentro tutte le cose che riteniamo importanti. Ecco, i terroristi, per esempio, quello che tengono in questa scatola, tra l'altro ermetica, io dico a Diego, diffida delle scatole troppo chiuse, quelle che non sanno quanto valore ci possa essere in uno scambio. Ecco, il terrorista o colui che decide di sacrificare la propria vita per uccidere un nemico che in quel momento però non è un nemico vero e proprio, perché è qualcuno che in realtà non gli ha fatto nulla, è qualcuno che in quella scatola ha tutti obiettivi e desideri che non hanno a che vedere con questa vita. E quindi in realtà, partendo da questo racconto, ho cercato di affrontare con Diego tutti i grandi temi, dalla morte, la religione. Infatti diciamo che il terrorismo, queste immagini che ha visto, è un po' il pretesto, è il là da cui tu parli per parlare un po' di tutte quelle che possono essere le paure e le ansie di una madre. A un certo punto tu scrivi: oggi so qual è la paura più grande di una madre, è quella di consegnare suo figlio al mondo. Credo che questa però sia una paura un po' universale che c'è sempre stata, o credi che, diciamo, in questi tempi ci sia un'ansia maggiore da parte delle madri e dei padri? Sicuramente diventare genitori ha a che vedere anche con la paura, nel senso che si scopre per la prima volta. Io ho affrontato nella scrittura di Sono cose da grandi tutte le mie paure, non solo le paure di madre, le paure che avevo anche prima di avere Diego. Anzi, anche per esempio la paura di volare, la descrivi molto bene, la paura di andare in un aereo. Ecco, in questo avere Diego ti ha cambiata? In questo avere Diego mi ha fatto riscoprire da un certo punto di vista più fragile, perché ai suoi occhi io dovrei essere in realtà la guida, la persona che non ha una bambina dentro che piange, mentre invece qualunque madre dentro ha anche una bambina che piange, una bambina spaventata. Però già solo fronteggiare quella bambina è stato terapeutico per me, tanto è vero che all'inizio del libro io non sapevo dove stavo andando e non avevo veramente l'idea di volerlo pubblicare. Era più qualcosa che stavo scrivendo per Diego, e sapevo che Diego ne avrebbe fatto tesoro lungo il corso della della sua vita. Poi però in realtà mi sono ritrovata io per prima a fronteggiare la grande paura di lasciarlo andare. Purtroppo mi sono separata e come tutti i genitori separati devo anche fronteggiare molto presto il distacco da un bambino così piccolo che però può prendere l'aereo senza di me, può volare insieme con il padre, andare dall'altra parte del mondo in un posto che mi può far paura oggi più di ieri perché so che nessun luogo è più sicuro, ma forse non lo è mai stato. Ma sì, questa è un'ansia diciamo anche abbastanza comune, diciamo è un'ansia sociale di questi tempi a cui probabilmente si somma appunto l'ansia e la paura di una madre. Tu hai messo anche molto a nudo la tua fragilità, no? Nel senso che hai comunicato a Diego che un giorno leggerà questo libro quali sono appunto le tue paure di madre ma anche di donna. Come hai vissuto anche un po' questa, non dico senso di colpa, ma insomma da madre credo che uno vorrebbe non trasferire al proprio figlio le ansie e le proprie paure. Tra l'altro tu fai una bellissima distinzione fra paura e terrore. Esatto, faccio la distinzione tra paura e terrore perché un po' di paura è sana, se il topolino non avesse paura il gatto se lo mangerebbe, invece in qualche modo la paura lo fa stare attento, accorto, il terrore invece ti immobilizza e noi viviamo in un'epoca in cui il terrore è sempre più messo davanti ai nostri occhi attraverso gli attentati, attraverso quello che stiamo vivendo. In realtà io ho scritto un libro che è vero sì, che racconta le paure, però penso che sia anche un'esaltazione del coraggio anche che ci voglia per mettersi semplicemente a nudo con le proprie fragilità. Per me è stato un attraversare, come dicevo, anche partendo da una grande interrogativo che avevo all'inizio del libro e che durante la stesura ho cominciato via via, man mano che mi facevo coraggio, a scioglierlo e quindi a prendere più consapevolezza della mia fragilità. E quando dico a Diego, a un certo punto racconto a Diego, la nostra fragilità è un po' come quel laser in quel cartone animato che ti piace tanto, quel laser che ingigantisce le cose, perché è vero che la fragilità rimpicciolisce le cose perché ci fa sembrare tutti più piccoli di fronte al mondo. Poi arriva l'amore che è come un convertitore, cioè che ingigantisce tutto, e quindi l'amore sicuramente ci dà molto coraggio. E anche come madre ho cercato, come mamma nelle mie giornate strampalate con mio figlio, perché io sono una mamma distratta, sicuramente Diego a volte sembra lui mio padre che infatti mi dice... l'ho visto nel libro che è uno che sta molto attento, tipo che dice insomma hai dimenticato le chiavi mamma, insomma è uno responsabile, è un bambino responsabile anche nei tuoi confronti. Sì, molto, infatti è incredibile come poi alla fine ci scegliamo, perché assomiglia molto al padre in questo, e quindi una persona come me ha sempre poi ritrovato intorno nella sua vita persone molto diverse che in qualche modo cercavano di darle un po' una stabilità. Prima citavi il fatto che tu sei separata, quindi insomma Diego è figlio di genitori separati, che è una condizione molto molto comune. Scrivi una cosa molto interessante secondo me. Tu dici: di bambini con genitori che non vivono più insieme ormai ce ne sono tanti, non ti sentirai certo un diverso per questo. Presto capirai che i cambiamenti di rotta possono offrire delle opportunità. È importante dare ai figli appunto l'idea che anche i cambiamenti dei genitori, i loro errori fra virgolette o comunque le loro scelte possono volgere in opportunità. Assolutamente, infatti la parola crisis, la crisi in realtà per noi ha un significato, ma all'estero ha un altro significato, vuol dire proprio l'opportunità di cambiare, l'opportunità di trovare nuove strade. Siamo umani, possiamo sbagliare, si sbagliano i matrimoni, ecco, importante non sbagliare i divorzi, nel senso che quando si sbaglia un divorzio... bisogna tutelare i figli in assoluto. Esatto, e quindi sai, mentre scrivevo questo libro sulla paura, sulla fragilità, in realtà era poi alla fine mi rendevo conto che era un libro sul coraggio, per dare coraggio a mio figlio, e quindi fondamentalmente non volevo che Diego pensasse che i fallimenti, le cose che possono accadere poi rimangono lì come dei massi che non puoi più spostare, che ti in qualche modo... possono essere appunto trasformati in opportunità, come dicevi tu. E fa parte anche l'amore che finisce, un amore che era sbagliato, che in qualche modo non ti rendeva la persona che vuoi essere. Si dice morto un papa se ne fa un altro, quindi poi uno a un certo punto pensa che magari quello che verrà dopo potrà essere una grande opportunità di cambiamento e di crescita. Altra frase che ho segnato in questo libro. Da quando sei nella mia vita, scrivi appunto rivolta a tuo figlio, devo impormi ogni giorno di non trattenere nulla, anche ciò che è importante, per lasciarlo libero di trasformarsi. Beh, questo credo che sia la questione che tutti i genitori, madri e padri, si pongono sempre, cioè quanto e quando è giusto lasciare l'autonomia e lasciare andare un figlio. Tu come vivi da mamma di quattrenne questa tensione comunque emotiva? Ecco, io adesso la mia condizione è quella di Chioccia che cerca di proteggere il suo bambino. Poi so che nel corso, perché mi confronto anche con tanti altri genitori di ragazzi adolescenti, che poi arrivano i conflitti, anzi questo libro sono contenta di averlo scritto oggi, perché oggi io ho fermato i 4 anni di mio figlio, che è qualcosa di irripetibile per lo sguardo che lui ha sulle cose e sul mondo, e che mi restituisce con una saggezza antica che io quasi ho dimenticato, perché faccio parte della società, lui ancora no. Quindi chiaramente lasciare andare un figlio significa anche imparare a fidarsi, e noi madri di questa generazione abbiamo a che fare già con dei piccoli alieni, tra virgolette, perché loro sono nativi digitali e quindi hanno un'altra velocità e anche un'altra altre capacità che noi non abbiamo, non avremo mai. E quindi imparare anche a non rapportarsi alle proprie ansie esclusivamente, ma cercare di pensare che se i bambini nascono in un certo contesto con altre capacità e altre abilità, avranno poi dobbiamo imparare a fidarci della loro crescita e del fatto che magari quello che a noi sembra imponente, ansioso, ansiogeno, per loro magari è un rumore di sottofondo, come questa esposizione continua, questo continuum del terrore che ci viene dato dai media rispetto a quello che accade nel mondo. Non che prima il mondo fosse più pacifico, perché in realtà forse abbiamo conosciuto noi come generazione un mondo molto più pacifico di quello che hanno conosciuto chiaramente i nostri nonni, i nostri genitori. Però è fondamentale, ecco appunto, trovare gli strumenti per affrontare questo mondo, e sapendo che i nostri figli sono avvantaggiati in questo, perché hanno strumenti che noi non abbiamo. Grazie Simona Spara, ora in libreria con Sono cose da grandi, pubblicato da Einaudi. L'abbiamo detto, è un piccolo libro, un centinaio di pagine, sostanzialmente una lunga lettera che Simona Spara scrive per suo figlio Diego di 4 anni, per cercare anche di aiutarlo ad affrontare le paure e le ansie che i genitori e i bambini nel mondo d'oggi devono affrontare. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Usain Bolt. Si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo e c'è la stoccata, la conferma la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Il cacciatore di libri. Si intitola Città a mano armata, è stato scritto da Antonio Del Greco e Massimo Lugli, pubblicato da Newton & Compton Editore. Sottotitolo: le indagini segrete sui casi più scottanti della storia criminale italiana. Massimo Lugli è un giornalista di cronaca nera, in pensione da un paio d'anni, però insomma lo stato a lungo tempo, e anche scrittore. Antonio Del Greco è un ex dirigente, fra le altre cose, della squadra omicidi di Roma. Insomma, una strana coppia per raccontare in modo romanzesco fatti reali, realmente avvenuti, e che fanno parte, come dire, dello scenario della criminalità italiana degli ultimi 40 anni. Massimo Lugli, partiamo con te. In che modo, con che criterio avete scelto i casi reali di cui parlare, però in un certo modo anche raccontandoli come se fossero un romanzo, come se fossero un giallo accattivante? I casi erano quelli, come dire, più scottanti, e ci tenevo molto che fossero degli anni 80, perché questo è un libro, come dice Antonio, di polizia in bianco e nero. Quindi abbiamo ripercorso i più clamorosi, da Johnny Lo Zingaro al delitto di Via Poma, passando per l'evasione incredibile da Rebibbia, organizzata da un gruppo di banditi che sequestrano un elicottero. Ma oltre che i casi abbiamo voluto parlare della mala romana, e quindi ci sono dei capitoli che parlano di categorie di mala, per esempio i truffatori, di cui Antonio in silenzio è un grande ammiratore perché li arresta ma li ammira per la loro, per loro ingegno. Anche loro ammirano me però, eh. Sì, beh, almeno è reciproco, c'è insomma. Reciproco, sì, sì. Tutti i banditi che ho parlato hanno una venerazione per Antonio, anche quelli che lui ha schiaffato in carcere. E poi per esempio i cassettari, l'elite della mala, quindi molti spunti me li ha dati lui, alcuni li ho modestamente suggeriti io, e alle volte abbiamo deciso di parlare a due voci, cioè non fare solo il racconto di prima persona ma il racconto del poliziotto e poi quello del pennivendolo, che ricordano lo stesso caso, un esempio Gianni Lo Zingaro, visto da due angolazioni diverse. Antonio Del Greco, all'inizio di questa intervista abbiamo deciso di darci anche noi del tu, perché normalmente con gli scrittori e i giornalisti appunto ci si dà del tu, allora abbiamo detto per par condicio, anche se sei un ex dirigente insomma della Omicidio a Roma, ci diamo del tu. Tu hai vissuto proprio da protagonista, insomma da colui il quale ha indagato diversi di questi casi, naturalmente di truffa, furti, ma soprattutto anche gli omicidi. Prima si faceva cenno al fatto che appunto molti delinquenti ti venerano, così diceva Massimo Lugli. Ma al di là di questa idea della venerazione, effettivamente si crea un rapporto particolare fra poliziotto che indaga e alcuni tipi di criminali, chiaramente non tutti. Beh sì, sicuramente, non con tutti ovviamente, però con alcuni, diciamo che sono una buona parte, si instaura un rapporto speciale, quasi di fraterno, ecco. Spesso li andiamo a trovare a casa la mattina presto per fargli le perquisizioni, spesso vengono accompagnati in ufficio, insomma capita talvolta che con qualcuno ci si vede più che con i propri familiari, per cui si instaura questo rapporto un pochettino particolare e che spesso piace anche a loro, non disdegnano, diciamo, di fare questa confidenza, magari parlano di qualcosa andato male, oppure quello antipatico che sta preparando il colpo. Ecco, si tratta di sapere bene gestire le loro notizie per sfruttarlo ovviamente in campo investigativo. Allora, ritornando nello specifico a questo libro, abbiamo detto che vengono citati diversi casi di cronaca nera, insomma famosi, anche famosissimi. Massimo Lugli, per quanto ti riguarda, quale di questi casi ti ha lasciato di più l'amaro in bocca o la sensazione che, insomma, le cose non sono andate come sarebbero dovute andare? Guarda, sicuramente se farai questa domanda ad Antonio risponderà via Poma, invece io dico il giallo dell'Hilton, una storia incredibile, incredibile, in cui tra l'altro Antonio si avvalse molto della collaborazione di me e di un altro giornalista, perché le indagini erano divise insieme ai carabinieri ed era la storia di un'eredità, parliamo di decine e decine di miliardi, in Svizzera, che fu lasciata a una badante di un albergo. Lei, per recuperare questa eredità, assoldò, arruolò tre persone, e ci furono tre morti, tre morti poco chiare. Purtroppo c'era un magistrato che in qualche modo era coinvolto in questa vicenda, per cui io sono sicuro che le indagini vennero insabbiate, tant'è che quella inchiesta la doveva fare la procura perugina, visto che questo magistrato era vicino a una delle persone che poi finì per uccidersi. Una storia impressionante che, se uno mettesse in un romanzo, sarebbe, come molte altre cose vere, incredibile. Al di sopra proprio della realtà. Del Greco, invece, per te il delitto di Via Poma, naturalmente non puoi dire che idea personale ti sei fatto, però che cos'è che secondo te è mancato nell'indagine su quel delitto? È mancata, secondo me, la tecnologia che oggi hanno a disposizione tanti investigatori. All'epoca, anche se siamo negli anni 90 e quindi non lontani nel tempo, eravamo effettivamente preistoria sotto l'aspetto tecnologico. Pensare, diciamo, a trovare il numero telefonico da un apparecchio fisso era impossibile, quindi diciamo che ci mancò questo aspetto, perché fu un caso veramente quasi unico ed è uno dei pochissimi omicidi che non ho risolto, che praticamente non aveva testi. Gli unici due che potevano darci delle informazioni addirittura ci fornirono delle false piste. Quindi io ritengo di aver fatto insieme ai miei collaboratori un'indagine veramente importante al riguardo, però di non essere riuscito a arrivare alla soluzione, e questo mi dispiace ancora oggi. A proposito delle tecnologie, una domanda sia per Del Greco che per Lugli. Per quanto riguarda Del Greco, dal punto di vista appunto delle indagini, Visto che avete preso dei casi a partire dagli anni 80 in poi, in molti casi appunto non c'erano le tecnologie, non c'era il DNA, non erano neanche così diffusi i cellulari, se vogliamo dirla tutta. Come è cambiata la metodologia di indagine in questi 40 anni? Beh, diciamo che talvolta, e Massimo più volte l'ha sottolineato, si parte dall'aspetto tecnologico per arrivare poi alla investigazione vera e propria. Da noi in quel periodo non funzionava così, anche se il libro, Massimo, è stato un po' riduttivo, in effetti parte dagli anni 80 ma arriva fino ai giorni nostri, quindi parliamo di casi anche più recenti. Sì, sì, certo, risolti, in cui ovviamente alcuni la risolti, c'è. Alcuni risolti poi attraverso appunto l'utilizzo di tecnologia che ci consente oggi attraverso un telefonino, attraverso un computer di localizzare esattamente nel punto dove sta una persona, quindi mentire come si faceva una volta, e quindi quel gioco di dover arrivare alla verità facendo cadere in contraddizione l'indagato, oggi non conta più, perché basta fare un quesito al suo telefono e ti dirà il giorno, l'ora e il momento dove si trovava. Ecco, dal punto di vista invece narrativo, Massimo Lugli, il fatto che oggi le indagini siano seguite da troppa tecnologia, da tanta tecnologia, ti toglie un po' a livello di narrazione? Ma io credo di sì, infatti io penso che la cronaca nera sia diventata molto sciatta. La cronaca nera, che una volta era anche letteratura, se vogliamo, e forse era letteratura perché le investigazioni erano più fantasiose, più d'intuito, adesso è praticamente un elenco di verbali e di tabulati e di intercettazioni, cioè i pezzi a me sembrano drammaticamente tutti uguali. Però questo non dipende soltanto dalle indagini, ma anche dal modo di fare giornalismo, ahimè, che è sempre più tecnologico. Fra i vari casi che voi citate in questo libro c'è sicuramente quello della banda della Magliana con tutti i suoi personaggi. Li definisco personaggi perché in realtà sono diventati anche protagonisti un po', come dire, dell'iconografia, sì, insomma, sociale ormai. Anche televisivi. Ecco, televisivi, nei romanzi, eccetera. E allora chiedo proprio ad Antonio Del Greco, in quanto ex poliziotto, insomma, dirigente di polizia, c'è stata nei confronti della banda della Magliana un'eccessiva fascinazione da parte della gente? E invece tu come la vedi dal punto di vista investigativo? Come lo vedi quell'enorme caso, insomma? Beh, sicuramente è così. Si sono un po' troppo caricati questi personaggi. In realtà la banda della Magliana, che ha operato negli anni 80 fino agli inizi del 2000 a Roma e nel resto d'Italia, in effetti era un gruppo composito di varie organizzazioni criminali che facevano riferimento a quartieri, ma erano dei malavitosi non eccessivamente importanti sotto il profilo, diciamo, intellettuale. Erano dei gruppi che facevano capo a dei soggetti e che facevano capo a dei quartieri. Il personaggio sicuramente più importante, più intelligente, il più, diciamo, il più dei più era sicuramente Renato De Pedis, quello che riuscì a convogliare gli interessi di tutti questi soggetti in un unico interesse, quello di far soldi, e il più possibile lui riusciva a farli fare con metodi, diciamo, più vicini ai giorni nostri, ecco, attraverso la corruzione, attraverso il sistema istituzionale, attraverso il sistema politico. Antonio Del Greco, un'ultima domanda. Nella tua carriera appunto quarantennale in polizia hai risolto ben 88 omicidi, così dicono le statistiche, me lo confermi? Sì, sì. Ecco, sì, fra questi delitti risolti che sei riuscito a risolvere, su quale hai detto, caspita, su questo avete fatto, tu e i tuoi collaboratori, un lavoro eccellente? Quale ti ha dato più soddisfazione nella risoluzione del caso? Ma uno in particolare che ho raccontato nel libro, e poi insomma volevo anche dire che in questo libro ci sono molti inediti. In particolare faccio un esempio: come si approvvigionava di droga la banda della Magliana, cosa che non ha mai detto nessuno, oppure quanto contava il gioco clandestino per gli introiti della banda della Magliana, cosa che non sono state mai dette. Ecco, abbiamo cercato di mettere insieme tante cose non dette. Per quanto riguarda la domanda, sicuramente è stato quando risolsi l'omicidio attraverso lo sguardo di un tizio che stava guardando al di fuori di un locale dove noi stavamo facendo irruzione, dove era stato ucciso qualche giorno prima un falegname. Ecco, soltanto guardarlo in faccia mi ha dato l'impressione che si trattasse dell'assassino. Infatti alla prima parola ha domandato quando aveva visto per l'ultima volta il falegname, lui mi ha detto: ah, l'ho visto ieri sera, noi l'avevamo trovato 2 giorni prima morto, e quindi l'ho risolto soltanto guardandolo in faccia. Grazie Antonio Del Greco, l'abbiamo detto, ex dirigente fra le altre cose della squadra omicidi a Roma, e Massimo Lugli, giornalista, scrittore, autori a quattro mani di Città a mano armata, un libro, l'abbiamo detto, che racconta casi veri ma in modo assolutamente narrativo, un libro pubblicato da Newton & Compton. E anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella, vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it in podcast. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.